Nel cuore tanta malinconia, quando mi manca il sole. Sembra più triste tutta la vita mia, che non conosce amore. Quando mi manca il sole, un po' di sole fa sbocciare le rose, un po' di sole riscalda il cuore. Quando scende la neve, se più triste sei tu, un po' di sole e nulla più. S'ode nell'aria un canto di nostalgia, quando tramonta il sole. In ogni fiore c'è la tristezza mia, che fa soffrire il cuore quando tramonta il sole. Un po' di sole fa sbocciare le rose, un po' di sole quando scende la neve, che tu triste.